l'amico Maurizio hanno toccato dei temi e chiamato in causa le istituzioni. Io prego i cittadini un secondino, credo che sia nella convenienza di tutti sentire per quello che dicono le istituzioni. Io darei la parola al vicepresidente del dodicesimo, Cuoci, per un intervento. Buonasera a tutti e grazie innanzitutto per aver preso la decisione stasera. Allora io colgo chiaramente un senso di sofferenza diciamo nella presentazione di questa assemblea, per il quale mi sento dire che è parzialmente condivisibile e parzialmente invece no. Io mi potrei dilungare su 10-15 anni di storia di questo famoso programma di recupero urbano, la famosa legge che citava in premessa Alberto Cuoci, che riguarda appunto il famoso articolo 11, che purtroppo diciamo, si è protratta a lungo nel corso degli anni e ha causato una serie di inefficienze nella sua applicazione sia da parte dei privati sia da parte del pubblico, anche perché in tutta questa situazione si inserisce, non è da sottovalutare per esempio quando si citava l'ottavo ponte, un terzo ente che è l'ATER, per cui è vero che c'è, faccio questo solo per fare un esempio, cioè delle difficoltà di applicazione poi di tutte queste situazioni, che il Comune di Roma si trova con la difficoltà di dover investire dei soldi su un immobile che per esempio nel caso specifico non è di propria proprietà. Questo potrebbe essere già un primo punto che fa capire quella che è la difficoltà che si incontra. Io devo pure che i fondi che faceva riferimento Alberto, che si riguardavano appunto gli investimenti comunali, nel corso degli anni si è scoperto che alcuni, tra l'altro, erano finanziati, più virgolette, per chi è più addetto ai lavori, con alienazione beni da parte del Comune di Roma, che è una formula che veniva utilizzata, oggi diciamo fortunatamente meno spesso, veniva utilizzata per iscrivere le somme a bilancio, che prevedeva che il Comune di Roma doveva mettere queste beni per finanziare quelle voci, piuttosto che un'accensione di mutuo e quindi un'accensione di finanziamento diretto per realizzare una determinata serie di opere. Questa è un'altra difficoltà che si incontra. Dopodiché, per quanto riguarda il programma di recupero urbano lavorativo, senza scendere troppo nel dettaglio, per quanto riguarda la questione diciamo della sensibilità, il Presidente darà delle risposte sicuramente più ampie e più importanti delle mie. Per quanto riguarda il programma di recupero urbano, io non credo affatto che questo quartiere sia dimenticato. Noi vediamo che un'attenzione c'è su questo quartiere. Sebbene ci siano delle opere iniziate negli anni passati, Dio nessuno vuole appropriarsi nei meriti che si è aperto tutti, comunque nascono da una precedente amministrazione e vengono diciamo ultimate oggi, però il centro di Piazza Morante è comunque un fatto importante per questo quartiere. In progettazione, tra l'altro, come programma di recupero urbano c'è il rifacimento del Vulera, perché questo è finanziato, queste sono le notizie che mi hanno dato dal Dipartimento di Periferie, ci sono circa 2 milioni e alcune centinaia di migliaia di euro per realizzare il recupero dell'anello viario diciamo di via Silone, e in più diciamo già parte un puntamento, tra l'altro come avete potuto vedere come via Silone è stato sebbene una piccola parte realizzata. Ovviamente l'obiettivo sarà quello di spendere ulteriori fondi per realizzare senza dimenticarci che quando spiegavo le difficoltà amministrative io credo che su questo punto di sofferenza il caro Alberto ha perfettamente ragione, e cioè che appunto dal Valentino manchino negozi, manchino determinati servizi, manchi una banca, manchi l'ufficio postale. Io questo non posso far altro che constatarlo e condividerlo, però purtroppo dobbiamo constatare che l'abbattimento del undicesimo ponte, che doveva portare questi servizi, non ha visto purtroppo una conseguenzialità di atti, in particolar modo dall'ATER, il titolare della ricollocazione di quelle levature abbattute e che quindi negli anni passati già avrebbe dovuto presentare dei progetti che poi andavano appunto realizzati per portare questi servizi. Quindi noi adesso ci auguriamo, tra l'altro parte della strada diciamo, è in trasformazione anche per quanto riguarda la propria gestione con i vertici, nel più breve tempo possibile si possa mettere di nuovo questo meccanismo virtuoso appunto alla ricollocazione affinché i servizi possano arrivare su questo quartiere. Questo tra l'altro del 9-10 ponte è stata una battaglia che potete ricordare che si è realizzata perché l'ha voluto innanzitutto il quartiere e si è creata nel momento questa, diciamo, questa importante, in questo importante abbattimento una convergenza assolutamente a 360 gradi tra tutte le forze politiche. Credo che invece, su questo io ne sono fermamente convinto, vada assolutamente proposto su quei punti che sono al momento almeno più degradati, almeno da quello che possiamo vedere il quinto e il sesto sono un esempio di degrado maggiore, perché chiaramente sui primi tre esistono delle funzioni pubbliche, il quarto comunque ancora molto conservato abbastanza bene, così come il settimo e quindi i punti che presentano un degrado maggiore al momento sono il quinto e il sesto. Noi pensiamo che si debba riproporre quell'esperimento di 9-10-11 ponte, perché è un esperimento che anche dal punto di vista di gradevolezza, di approccio al quartiere, lo ha trasformato e ha portato del beneficio. Dopodiché, diciamo, nella manutenzione ordinaria sul quartiere si sta intervenendo, si stanno facendo le strade, c'è cioè il mezzo sudore che è stata asfaltata, dopo anni si sta provvedendo alla manutenzione del bene che esisteva su viale Ignazio Silone con una lavoratura con l'intesa della persona che c'erano lì sopra. Adesso chiaramente è un percorso che va, non siamo arrivati ancora dove dovevamo arrivare, è un percorso che si è iniziato e dovrà essere completato. Però quello che voglio dire e su cui voglio rassicurare, senza appunto entrare sulle responsabilità di chi lo potrei fare, cioè potrei entrare in fare uno show su come 15 anni si è perso tempo in questa situazione e non certo da parte dell'amministrazione che rappresenta, ma non ci voglio entrare in questa discussione, cioè quello che voglio dire è che l'attenzione c'è, i progetti si stanno realizzando, i progetti si stanno progettando, probabilmente quello che si sta progettando e si sta mettendo in cantiere negli ultimi mesi è con molta difficoltà, molto di più del tempo perso che si è perso negli ultimi 10 anni. Io questo lo devo dire. Scusi, per quanto riguarda il sistema di Scusami, hai usato 10.000 parole per dire non so che cosa. Io ti dico, no, non me lo devi spiegare a me, devi spiegare a chi ti ascolta. Io ho detto, hai usato 10.000 parole per dire non so che cosa. Adesso vado a dire. Per dire che cosa c'è da fare su una strada, bisogna riparare una strada che è quella dei ponti, che è il degrado dei ponti quando il degrado sta sotto alla circoscrizione, non è possibile parcheggiare. Bravo! In piazza. Aspetta, scusami, perché sta storia bisogna finirla perché sennò qui. Allora, ma non mi devi dire che mi devi sentire ed ascoltare. Non c'è ragione, ho ragione io. Guardate che state lì per ascoltarci! Dovete riparare una strada, si parla del comune, lo sposto da sinistra verso destra, no, perché se no rimarremo con i bozzi alti così, no? Perché prima Gazzetta ha alzato le spalle quando lui ha detto che uno si è ammucchiato dentro la buca e l'altro l'ha trappolato, sembrava sì che non lo sapeva. Come ha piovuto, si sono aperte le voragini, non le buche, non le chiamiamo più buche. Mia moglie non vuole più chiamare il 06 perché è stressata. Chiarissimo Gazzetta, sta storia ce l'abbiamo già detta un anno fa. Io ho mandato un'email al signore Paolo per dire le cose che mi mandavano su Ignazio su Piano Masoni, ma per carità, per dare la fine e tono. Una strada dovete sistemare, non 10 cose. Bravo. Ma di che cosa volete parlare? Una strada, una. Una ce l'ha. Ne hai una sola, non c'è l'occhio qui, c'è un buon sistema romano. Tu sei romano come me, sei un perditempo come me, io perdo tempo. Perdiamo tempo tutti quanti. Tentiamo di cambiare, tentiamo di cambiare. La nuova amministrazione, Gazzetta, per piacere. Lei vede le cose che non funzionano, non si fa sempre. Lui, Martino, si fa sempre la passeggiata a piedi, che sa tutte le cose che non funzionano. I secchioni, come si chiama? Quelli, l'ampiezza che viene. Ma lasciamo stare l'immondizia perché ma chi deve andare con la carrozzella non può camminare via con naso nei letti. Non ridete perché questa è una cosa seria. E le bughe sono una cosa serissima, perché non si parla più di bughe, sono coraggi, sono altri 20 centimetri. Allora, non sapete per fare tante cose, il recupero del va benissimo, lo spostamento del comune va benissimo, però, ma provate a cambiare la plastica sulla scala, quando vengo a fare a trovare qualcuno al comune, fa schifo, ci scivo. La plastica della scala è stata ripitturata all'esterno, ma la plastica è sempre bella. Ma possibile, voi non ci passate. Ad ora è arrivata una sospensiva da parte del TAR. La sospensiva è un atto, diciamo, pilatesco, cioè, come diciamo fecero con nostro Signore che si lavano le mani. Bisogna che qualcuno stia presso al TAR, stia presso all'avvocatore del Comune di Roma per trovare un accordo e cercare, diciamo, come dire, una soluzione anche, ad esempio, attraverso il giudice di pace e quindi, diciamo, trovare anche una via che passi attraverso il giudice, attraverso la giurisprudenza, attraverso le corti, diciamo, di giustizia italiana. Noi politici, diciamo, non ci consideriamo meno capaci se il giudice, diciamo, risolvesse un problema che la politica almeno riesce a risolvere, non per mancanza di volontà, ma per oggettive difficoltà. Questo è un primo capitolo ed è un invito che faccio al Presidente, perché proprio lui, come rappresentante di tutti quanti noi, può spingere sull'avvocatura del Comune di Roma perché l'avvocatura si impegni per trovare una soluzione, diciamo, in questo senso. Il secondo tema è quello politico e amministrativo. Allora, la lettera 142 era all'ordine del giorno, poi è stata chiamata da parte dei colleghi del centrodestra all'ordine dei lavori, vale a dire prima si poteva discutere, adesso si discuterà, cioè può essere tranquillamente discussa in aula. Primo passaggio, abbiamo ottenuto una dilazione, cioè abbiamo ottenuto che la delibera tornasse all'ordine del giorno, cioè che non potesse essere discussa, ma che tornasse dalle delibere, diciamo, che stanno lì da una parte, sono pronte, si possono discutere, ma per ora non ci sono le condizioni né politiche né amministrative per discutere. Quindi un piccolo passo, anche a buona disponibilità da parte del capogruppo del centrodestra Caravaggio, c'è stata, e cioè la delibera è stata accantonata. Quindi, diciamo, prima delle vacanze di Natale, prima di gennaio, sicuramente la delibera non verrà discussa. Questo è, diciamo, l'impegno che abbiamo chiesto tra di noi. Dopodiché noi abbiamo chiesto, anche, diciamo, per il tramite di chi ci ha sollecitato, abbiamo chiesto che questo tempo che passerà, diciamo, dal ritorno della delibera in aula venga utilizzato per trovare una soluzione. Allora, la soluzione si può trovare solo ed esclusivamente attraverso un atto legislativo. L'avete sentito mille volte in mille proroghe, cioè quella legge nella quale c'è tutto. C'è la diga del Bagliot fino alla sanatoria del pagamento dei ticket in Sicilia, cioè c'è tutto. C'è, diciamo, tutte le questioni, diciamo, difficilmente risolvibili, perché questa oggettivamente, almeno nella parte che riguarda il convaglio, è una questione difficilmente risolvibile. Questo bisogna che tutti quanti noi ce l'abbiamo ben chiaro. Perché c'è una legge dello Stato che impone al Comune di Roma, così come a tutti i comuni, di chiedere il conguaglio per come viene calcolato in quel momento. Allora, o interviene, e noi ci siamo presi l'impegno, Umberto Maroni per primo, attraverso anche i deputati del PD, in primis da Finocchiaro, di presentare nel mille proroghe un emendamento che, diciamo, conceda ai comuni di stabilire se prendere o non prendere il conguaglio, oppure addirittura di sanare la questione del conguaglio, perché quello che state vivendo voi lo vivono in altri quartieri di Roma, ma lo vivono pure a Milano, lo vivono a Napoli, lo vivono a Palermo. Cioè, è una questione che, ahimè, ci portiamo appresso da 30 anni e nessuno ha voluto, ha saputo, è stato capace, ha avuto il coraggio di affrontare e di risolvere. E quindi, diciamo, il mille proroghe è l'unico strumento normativo che ci consentirebbe di risolvere la questione alla radice. C'è poi, diciamo, come dire, una soluzione B, e cioè che quella che se dovessimo perdere, perché il governo Berlusconi ci dirà di no sull'articolo all'interno del mille proroghe, c'è la soluzione B, e cioè, fermo restando il conguaglio, il comune, premessa, il comune non può intervenire sul conteggio del conguaglio, ma può intervenire su la trasformazione da diritto di superficie a diritto di proprietà. Allora lì che la politica deve intervenire, perché io sono del Monte del Mevola di Granata, quindi, diciamo, parlo. Se avete preso la sola sul conguaglio, non significa che la politica avrebbe dato la sola anche sul diritto di proprietà. Siccome l'errore l'abbiamo fatto noi nelle generazioni precedenti, cioè chi ha gestito questa città nelle generazioni precedenti, ma non negli ultimi 10 anni, nelle generazioni precedenti, perché un po' per colpa, un po' per il sistema, per la mancanza, diciamo, di decisionismo proprio di noi italiani, non siamo riusciti a risolvere la questione. Allora, si può pagare anche con quanto se non riusciamo a ottenere che venga insieme ai 1.000 euro, ma allora il comune deve cominciare la sua parte nella trasformazione di diritti di proprietà. Bisogna fare un pezzo simbolico, una lira, che sia una lira, ma poi pagherete una lira solo per pure il compagno. Questa è la battaglia che, se dovessimo perdere a livello nazionale, potremmo e dovremmo fare a livello romano. Quindi c'è la questione dell'avvocatura che qua ci ha mandato un compito arduo ma fondamentale al Presidente. Bisogna rompere le scatole, anzi rompere le palle con l'avvocatura e trovare una soluzione che passi anche attraverso un'aula di giustizia. Due, noi blocchiamo la 142, questo è un impegno e anche nel nostro potere, e lavoriamo perché al governo nazionale, a livello nazionale, venga presentato un emendamento nel decreto mille proroghe. Qualora questo non dovesse succedere, interviene un'altra parte della battaglia, che sarebbe insieme a Zuni, a Zietta e a Marroni, per dire, va bene, hanno preso la sola sul conguaglio, ma non diamo neanche la sola sul diritto di proprietà, e quindi il comune rinuncerà alla sua parte, questo è il nostro. Questo è quello che noi chiederemo, rinuncerà alla sua parte sul diritto di proprietà. Quindi si pagherà il conguaglio e una lira simbolica, diciamo, di sovrapprezzo. Grazie. Grazie per il quadrato. Cerchiamo sempre comunque di coordinarci nelle proposte, perché noi, tu lo sai benissimo, abbiamo aperto un tavolo, lo ricordava prima Maurizio e Filipponi, stiamo trattando con consigli, vogliamo vedere che fine fa, così come tra l'altro, questo è uno degli impegni che si erano assunti il presidente Calzetta, a cui do poi la parola, e il presidente Cacciotti, relativamente all'impegno che ci eravamo presi nell'ambito della regione, che era una subordinata anche a tutto ciò che avevamo sul tappeto. Quindi non abbandoniamo niente, muoviamoci in modo coordinato, così come noi da una parte continueremo a combattere, nel senso che chiederemo equità su queste cose, perché non è possibile che si sia creato un ginepraio che non veniamo più fuori, tutti quanti, chi paga, chi non paga, chi paga una parte del tutto. Allora, quello che pregherei Calzetta, ecco, una comunicazione è un ruolo più, vorrei dire, riconoscere un ruolo al consiglio di quartiere, perché è mai possibile che viene convocato un consiglio municipale con all'ordine del giorno i problemi del municipio, io lo devo apprendere, io sull'Aurentino, e lo devo apprendere a Babbo, nel senso che non erano stati nessuno di noi informati. Io credo, e te lo dico perché è indispensabile la collaborazione con il municipio, perché sia sul piano, sia sulla riqualificazione, sia sul problema del conguaglio e del diritto di superficie, noi dobbiamo cercare, nel rispetto delle posizioni e chiaramente istituzionali, la tua e il nostro, quello dei cittadini, di trovare una sintesi, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte. Grazie, Calzetta. Grazie, buonasera a tutti, ringrazio per l'invito a questa assemblea. Rispondo subito sulla questione del Consiglio. Il Consiglio non è che è stato fatto dal municipio, è stata una richiesta, un bisogno dell'opposizione, di essere informati su tutte le questioni che c'erano. Quindi da parte io sono stato in Consiglio invitato, quindi ho riferito di quello che si stava facendo. No, io non ho colpa a nessuno, quindi voglio dire che è stato un consiglio concordato con la conferenza dei capigruppo, in cui i consiglieri hanno chiesto, diciamo, di avere il presidente in aula per avere informazioni e fare domande. Questo è stato, quindi da parte mia nessuna preclusione a fare incontri, perché non è, credo, il primo che facciamo. e il fatto stesso che noi siamo qui stasera è anche una volontà da parte dell'amministrazione municipale di confrontarsi e di cercare di capire come iniziare le attività del municipio. Sulla questione del diritto di superficie, noi abbiamo fatto una serie di incontri, io ricordo degli incontri fatti anche qua dentro, fatti in sala consiglio, all'indomani dell'arrivo dei pagamenti, abbiamo preso un impegno con i cittadini per una sospensiva dei pagamenti. La sospensiva è stata votata con una delibera portata dall'assessore Corsini in giunta e quindi siamo arrivati alla sospensiva. Questo significa così che è stato risolto il problema, significa soltanto che il problema è stato spostato per trovare una soluzione. E dice che a febbraio, quindi qui a febbraio dobbiamo trovare la soluzione. Io sono d'accordo con quanto diceva l'onorevole Quadrana, che la questione è una questione di carattere, due aspetti. Uno è di carattere amministrativo, nel senso che bisogna trovare, fare una norma per uscire da questa impasse. Quindi se c'è un emendamento presentato nel decreto mille proroghe, naturalmente faremo in modo di sentire i nostri rappresentanti per fare in modo di sostenerlo. Noi stiamo facendo un'altra strada che va però anch'essa nella stessa direzione, però sia noi abbiamo fatto un incontro anche con i rappresentanti del comitato di quartiere con l'assessore Bontempo, perché riteniamo che quella legge che non è chiara sugli aspetti relativi al diritto di superficie possa essere modificata, e mi sembra che anche nell'ultima assemblea che abbiamo fatto sulla questione delle vendite qui al Settimo Ponte, l'assessore che aveva anche un suo consulente lì ha detto che c'era una qualche soluzione. In quell'assemblea poi abbiamo preso l'impegno di fare un incontro con la Regione, con il Comune di Roma, con i rappresentanti dei comitati. Abbiamo chiesto l'incontro, io ieri ho avuto la conferma dall'assessore Contempo che sicuramente prima di Natale noi faremo un incontro tra Regione, Comune, Municipio e Comitato di Quartiere. Questo è l'impegno che noi abbiamo preso e l'impegno che verrà assolutamente portato avanti, perché chiaramente su questo noi abbiamo iniziato, io non parlo di quello che è successo prima, questo è un problema di questo quartiere che l'abbiamo portato avanti, quindi entro prima di Natale noi faremo un incontro con l'assessore per te. Questo è un fatto che voglio dare. Poi sulla questione dell'obiettivo, io credo sinceramente che non voglio dire che non ci sono problemi, perché questo è fuori dubbio che ci sono problemi. Però voglio dire, io voglio rivendicare, permettetemi di farlo, alcuni interventi che sono stati fatti, perché comunque sono stati interventi che hanno dato un segnale importante a questo quartiere, ad esempio la questione, io ho preso un po' di appunti di quello che diceva Alberto, ma alcune cose sono state dette, l'asfalto che si è fatto sulla strada, io sono d'accordo che all'interno tra le due strade c'è un problema, ma quello è rilevante e derivante anche dal fatto che ci sono i mini, la Marinetta c'è l'asfalto. Poi però questo non è un problema che noi non vogliamo affrontare, lo possiamo affrontare con delle risorse di bilancio che avremo e che abbiamo. Noi siamo stati per un anno. La scala dell'auto, questo lo dico, arrivo anche alla scala. Allora, noi siamo stati un anno, perché voi sapete che questa amministrazione è stata, ha avuto una gestione commissariale, quindi noi adesso stiamo andando in un assestamento di bilancio entro la fine di quest'anno e entro la fine, di questo mese, e andremo in bilancio, io spero che ci sono consiglieri comunali, andremo in bilancio entro la metà di gennaio. E quindi rientriamo nella gestione ordinaria dei fondi. Questo lo dico perché sembra che non si faccia. Abbiamo fatto un intervento su via di Anzio Sironi, so che ci sono problemi su via Alimenti e quindi cercheremo di fare degli interventi innanzitutto per mettere in sicurezza la strada, quindi cercheremo con Magnantina di fare subito questo tipo di intervento. Poi c'è da chiudere anche la ricerca di Alimenti, ma asfaltata, è prevista anche questa, lo facciamo con le risorse che ci vengono chiaramente date. Su questo prendo l'impegno di farlo, non ci sono problemi su questo, però vorrei anche continuare. è una questione di Samaria che stavo detto, è una questione di Sapone, comunque stavo detto. Via di Parini, a Via di Parini, da 30 anni, c'erano delle famiglie che occupavano una ex scuola. Abbiamo sgombrato, abbiamo chiuso e stiamo iniziando i lavori per ridare quello spazio al quartiere e ritrasformarlo in un servizio. I lavori dello skate park, l'area sportiva dello skate park è stata progettata e finanziata e verrà consegnata a breve. Dunque, il 7 dicembre c'è l'incontro con l'operatore che sta formando e quindi io conto di far partire i lavori dello skate park, che fa parte proprio degli interventi previsti all'articolo 11, diciamo entro la fine di quest'anno. La questione della scuola via Sellani. Via Sellani, la scuola è stata interamente ristrutturata ed è, credo, un segnale naturalmente importante per il quartiere. Stamattina è stato inaugurato il sottopasso che collega di fatto il quartiere Fratella al quartiere Castellaccia, che comunque è un fatto che può interessare sicuramente anche il Laurentino, ed è un fatto che è stato realizzato con un'operazione che ha coinvolto i comitati di quartiere, che ha coinvolto l'amministrazione comunale, regionale, l'ASPRA e anche il centro commerciale Roma 2. Siamo riusciti a fare in modo di attivare questo tipo di cose. Sarebbe sotto lo specchio dove praticamente adesso, questa mattina di fatto, si può attraversare la Colombo, è un percorso 5 regionale, ma si può attraversare sotto e andare dall'altra parte. E abbiamo attivato anche due fermate dell'ANPR, una di qua e una di là, dove si fermeranno quattro linee, 070, 700, scusate, bravo di qua, 706 e 709, che si fermeranno a ridosso comunque della Colombo e dove si potrà scendere e andare o dall'altra parte o da questa parte. La questione, abbiamo sulla questione di sicurezza, abbiamo fatto degli interventi, stiamo facendo ancora degli interventi su via Sirone che è stata asfaltata, ma poi la gente ci corre, quindi bisogna cercare di fare dei sistemi che facciano modo di rallentare il traffico. Abbiamo una parte aperta che cercheremo anche lì, sperando che i vigili non ci diano problemi, mentre le strisce sono rialzate in modo tale da inibire un po' il traffico e soprattutto la velocità. Stiamo seguendo, questo è un altro impegno che prendo, il tronchetto Quasimodo-Sirone, che è il tronchetto che serve a collegare via Sirone con via Quasimodo, di cui si parla da tanto tempo, è stato finanziato, è stato progettato, inizio dei lavori, perché purtroppo poi la burocrazia, io capisco che i cittadini non fanno niente della burocrazia, sono anche d'accordo. Purtroppo per noi è quasi un piano, bisogna passare attraverso la legislazione. L'inizio di questa roba è prevista per febbraio-marzo 2011. Altra cosa su cui stiamo lavorando è l'arco piovene. L'arco piovene è la parte sotto dove sta il Samorante e c'è un fatto che noi abbiamo riscontrato, che lo sia rispetto alla Colombo, tutto quello che sta di là dalla Colombo, come vedete c'è il pratino, tutto quanto è bello curato, eccetera. Tutto quello che sta di qua invece abbandona a se stesso. Allora, siccome sull'arco piovene, nella convenzione, inclusa la copertura degli alberi che sono molto pericolosi. Esatto, infatti, io su questo ho risposto. Sono pericolosi. Allora, noi su quella piazza c'era 1 milione di euro per realizzare una statua. La convenzione è prevedeva con i limiti da votare, con tutta una serie di situazioni da qualificare, prevedeva la realizzazione di una statua o una carta o convenzione. Noi abbiamo, io sono abituato ad ascoltare, però quando uno parla vorrei che quando poco parlo essere ascoltato. Allora, quindi questa cosa qui, noi abbiamo chiesto la modifica di questa convenzione e abbiamo chiesto di spendere quel milione di euro non sulla statua, che per carità, ci vuole e cercheremo di farla, di farcela dare dall'ufficio cultura del Comune di Roma, oppure di fare altre cose, perché la strada ci sarà, ma di spendere quel milione di euro per la riqualificazione di tutta quell'asse lì, di Aleri, quindi con la potatura degli alberi, quindi con la piantumazione di erba, quindi con la realizzazione anche di pista ciclabile che dovrà essere collegata al resto delle piste ciclabili che sono in questo municipio. Questo municipio è stato l'unico, l'assessore Croce lo sa che mi ha seguito qui, l'unico che ha presentato il piano della ciclabilità del municipale. Quindi questi sono segnali, io credo, importanti che noi abbiamo dato, ma insomma forse ci sono anche altre cose che magari dimentico. Vediamo la questione della sede. Allora, noi non è che siamo innamorati della sede del municipio. Noi ci siamo trovati con un articolo 11 che prevedeva, non è che ce l'abbiamo fatta noi la sede, e non, neanche noi abbiamo diciamo, progettato che diciamo, quella sede, quella piazza stesse fuori dal quartiere. Perché io sono d'accordo con quello che diceva Alberto, cioè dice, ma la piazza del quartiere dove sta? Dove sta Cagnotta? È giusto. Certo, qui stiamo parlando di un percorso amministrativo che, sono, che è l'articolo 11, che per chi sa un po' di queste materie sa che è una questione di cui si parla non so da quanti anni, ha previsto, quel progetto ha previsto che la piazza fosse tra Torpagnosa e la Lente. Ma chi di voi, dove stiamo noi per capirci? Noi anche fatto. Allora, noi quello che abbiamo fatto abbiamo chiesto, intanto che alcune opere pubbliche non venissero, cioè non venissero considerate pubbliche, perché lì presenta una commissione sulla quale abbiamo lavorato, è che la copertura della piazza veniva pagata dall'amministrazione comunale. Perché? Noi abbiamo chiesto che questa venisse messa in un calderone a spendere poi all'interno della opera. L'impianto di cogenerazione veniva di cogenerazione che serve al supermercato, che serve all'area commerciale, no? Venisse pagato come va bene considerato come opera pubblica, perché è un fatto che attiene assolutamente alla, diciamo a, all'operatore che gestirà questo tipo di cosa. Noi abbiamo proposto che la sede del municipio, già prevista, fosse realizzata, ma non perché intanto la sede dell'ufficio anagrafico del primo monte non verrà toccato, cioè gli uffici, il Laurentino continuerà a avere la sede anagrafica al primo conto così come è adesso, e quindi non c'è stato un problema, questo lo dico per essere chiaro, che quando dice non ci vuol via. Ma l'altra questione su cui ci stiamo lavorando fortemente è nell'eventualità, la mia posizione è una questione di sede, nell'eventualità che questa sede, gli uffici amministrativi vanno a Torpagnotta, che cosa bisogna fare con i locali che restano liberi. Perché questo fu un tema di scontro che c'è stato nella scorsa legislatura. Ovvero sia, perché dobbiamo mettere, diciamo, in qualche modo in pericolo questi locali con queste occupazioni, con questo degrado, di situazioni eccetera. Allora, noi stiamo facendo un percorso, e anche qui lo stiamo facendo insieme alla comunità con l'Università di Roma. L'Università di Roma ha un interesse che ha formalizzato di venire a portare dei laboratori che guardano alcune facoltà all'interno del Laurentino, che io credo che non è proprio una cosa da capire, nel senso che l'università sarebbe, nel caso si attuasse questo progetto, sarebbe un fatto assolutamente positivo per il Laurentino, perché significa avere un cambio culturale e anche un cambio di rapporti e soprattutto anche un indotto economico che all'interno della comunità potrebbe arrivare. Dopodiché, io sulla questione sede voglio essere assolutamente chiaro, nel senso che io, la mia personale opinione, la sede del municipio, io non so adesso che che ha detto alla questione del consiglio di vedo, a me non risulta, cioè io non so che sta scritto sul sito. Comunque, diciamo che sulla progettazione che ha fatto te. C'è ancora tutto da fare. La sede di municipio deve essere vista come la sede, diciamo, di questa amministrazione, di tal senso di nulla. La sede di municipio è il luogo dove i cittadini vanno e ricevono un servizio. Attualmente la sede di municipio sta su 3 ponti, quindi una persona che deve fare una rimessale, che va al 1° ponte, deve andare a pagare, che sta al terzo ponte all'ufficio tecnico, deve tornare al 1° ponte dove c'è la posta. E quindi c'è tutta una serie di situazioni che sono sicuramente un disservizio per i cittadini di tutto il municipio, no? Non soltanto quello dell'Aurentino. Dopodiché, giustamente, il Laurentino rivendica i fondi, e su questo io sono pienamente d'accordo, nel senso che credo che sia il caso, non soltanto sulla questione insieme, ma anche su altre questioni che riguardano le opere previste dal 2011, poi dicevo bene Maurizio, cioè è vero pure che questi fondi erano sulle direzioni bene, quindi questi fondi di fatto non è che c'erano all'interno del bilancio, dobbiamo cercare di capire che cosa e come portare avanti questa cosa, e noi lo vogliamo fare insieme al comitato di quartiere. E quindi la mia proposta, carissimi amici, è quella di fare un tavolo su cui il municipio è presente con il comitato di quartiere e all'occorrenza chiamare gli assessori competenti eccetera, per capire quali sono le cose che il quartiere vuole, perché noi non è che facciamo le cose contro il quartiere o per essere innamorato della sede. La sede secondo me ha una sua valenza, però è chiaro che siccome l'articolo 11 riguarda il Lorenzo, sei l'agente che ti tasca dai concessioni. Lo stiamo facendo anche attraverso iniziative che riguardano, diciamo, iniziative normative, perché è stato detto l'impianto sportivo, è stato detto il centro civico, come gestire le aree verdi, come ricollocare le cubature del lago. Perché anche questo è un tema importante, cioè lì sono stati fatti i voti. L'ACO doveva fare un progetto complessivo di riqualificazione e quindi cubature per piccolo artigianato, per questioni di carattere culturale, di questo non sono fatto niente. Quindi noi dobbiamo anche lì fare un tavolo con l'ATER, cercare di capire se c'è un progetto, se non c'è, dobbiamo proporre secondo quello che sono le esigenze del quartiere e portare avanti questo tipo di esigenza. Io credo, concludo, anche se qui c'erano altre cose, poi di più anche qualcosa sottolineato, anche la questione delle vendite degli appartamenti, che sia sbloccata recentemente. Io credo, cioè, dal prossimo anno, abbiamo fatto un'assemblea qualche settimana fa, io credo che la questione della vendita, che sia sbloccata finalmente dopo qualche anno, per circa 1000 appartamenti, può essere un ulteriore elemento di riqualificazione, perché un conto che uno sta con la sua famiglia dentro una casa dell'area e va bene, un conto che uno acquista la casa e la sente propria e la cura non soltanto per casa in sé, ma anche per quello che c'è intorno, anche questo può essere un piccolo segno, sono d'accordo, ma sono tanti piccoli segni che si stanno dando per poter fare in modo che il processo di riqualificazione che c'è, che vogliamo portare avanti insieme ai cittadini e ai comitati sull'Aventino, deve essere chiaro. Noi vogliamo fare questo. Poi naturalmente ci sono tante cose da fare, non è detto che sicuramente possiamo fare tutto insieme, ma questa è la nostra ferma intenzione. E io risponderò alla Repubblica. Io ho visto che la Repubblica ha pubblicato su quelle donne in serie di Repubblica, ho parlato già con il capo redattore e quindi abbiamo chiesto di fare una risposta, perché è inaccettabile che un articolo del genere, senza, io non so con quanti di voi hanno parlato, se hanno parlato con voi, cioè questi vengono, non parlano con il municipio, passi, non parlano con realtà territoriali, non parlano con nessuno, escono con un articolo sul Laurentino che è veramente mortificante. Dopotutto quello che sta facendo mostra, credo, questo quartiere, insieme ai cittadini, insieme a tutti, senza porsi il problema di effettivamente se sarà vero, non sarà. Io risponderò, perché credo che come presidente del Ciro mi sento ferito io come presidente, proprio perché il Laurentino è parte di questo territorio. Sulla questione, quindi la proposta su questo è quella di fare da subito tavolo che vada a verificare, dopodiché poi se la sede si vedrà che non farla, cioè non è che è un problema per me, a me interessa cercare di venire incontro a quelle che sono le reali esigenze di questo partito. Quindi su questo credo che noi siamo assolutamente sulla questione lineare, però dico rapidamente, stiamo facendo un lavoro di riorganizzazione, lo sta facendo Consiglio Sordini, che è presidente della commissione trasporti, quindi stiamo verificando come fare in modo di, anche se non ci sono dei fondi, ma come razionalizzare la vita, ma non sulla regione, sul domicilio. Noi abbiamo alcuni quartieri, ci sono 3-4 linee sulla stessa velocità, stiamo cercando di risparmiare tutti i chilometri su alcune strade per cercare di integrare i quartieri che oggi non hanno questo servizio. Quindi questo è un lavoro che faremo nelle prossime settimane, comunicheremo anche questo ai comitati per fare in modo di condividere le scelte che si fanno e così